Natra Radio Roma. Natra Radio. Roma. Radio. Radio. Radio. Natra Radio. Roma. Un consueto buon momento a tutti quanti gli ascoltatori di Natra Radio Roma e ai nuovi ascoltatori di Fuso Radio. In sintesi, un buon momento a tutti quanti gli ascoltatori di Natra Fuso Radio. Quindi oggi ai microfoni di Natra Fuso Radio è Mr. Brontolo che vi parla. Come è noto, noi ci serviamo solo di musica Creative Commons o copyleft. Ciò vuol dire musica svincolata da SIAE. Praticamente questo genere di musica può essere liberamente scaricata e liberamente proposta senza utilizzare appunto fini di lucro. Quindi Natra Radio Roma vi rinnova l'invito per lanciare un vostro podcast con siffatta musica. Come fare? Per esempio andare sul sito di MacIdol, cliccare sui Vetriol e mettere la traccetta che sta andando sotto. Subito dopo passare sul sito di Free Music Archive, beccare il mitico The Air Shack e proporvi così le prime due tracce che andranno a comporre il mio primo podcast di Natra Fuso Radio. Quindi in attesa di una vostra eventuale creazione inviata su natraradioromablogspot.com, Mr. Brontolo dei microfoni di Natra Fuso Radio vi augura buon ascolto. Oh. Su Giamendo si può trovare anche chi è che con la sua musica ha l'ambizione di spiegare la musica. Questo è il caso di Luca Bass con la sua ritmo di danza e noi ce la becchiamo tutta. È un ritmo di danza. Ritmo di danza. È un ritmo di danza. Ritmo di danza. È un ritmo di danza. Ritmo di danza. Musica gagliarda. È un ritmo di danza. Musica gagliarda. È un ritmo di danza. Musica gagliarda. È un ritmo di danza. Musica gagliarda. Ritmo da da ritmo da gagliarda. Da ritmo da ritmo da gagliarda. Da ritmo da da ritmo da gagliarda. Da ritmo da da ritmo da gagliarda. Da ritmo da da ritmo da gagliarda. Da ritmo da da ritmo da gagliarda. Da cento divide il tempo in gruppi di due movimenti. Il tempo si dice binario. Attenzione ai colpi del tamburo. Ai colpi del tamburo. Attenzione ai colpi del cassone. Ai invece come un'altra Radio Roma che ha la presunzione di passare musica a svanvera, cioè un pezzo che non c'entra nulla con un altro, perché la nostra libertà è passare qualsiasi pezzo. Quindi Andrea Coffame con Zabaglio, alias Vertigo, passeranno una traccia che ruota in tutta intorno alla lettera P. Sentite che roba. Progresso. Padroni. Progresso. Padroni. Progresso. Padroni. Progresso. Padroni. Progresso. Padroni. Perennemente patrocinati. Predi per piazze pretendono parcelle. Preservativi per prevenire parti. Pillole. Pillole per patologie paranoiche. Proprietà private per i colanti. Prime pagine per polizia. Penultime per peccatori. Persone persuadono persone, persone prevaricano persone. Plebiscite popolari per propagande politiche. Precise posizioni perentorie premuniscono potere, preoccupano poveri, premiano prepotenti. Perversi puritani pagano papponi protettori per penetrare piacenti prostitute polacche purché pulite. Poveri parenti. Proibizionisti preoccupati per pargoli predispongono privazioni. Parroci pregano, psicologi pazienti pungolano pazienti, prelati poeti predicano, perdoni pagati, parcheggi pieni, poesia polverizzata. Prego pure Padre Pio, passerò per pazzo, piovesse pietà. Come più volte detto, un'altra Radio Roma non si occupa di faccende politiche, ma due paroline credo che vadano spese per le ultime vicende occorse in Italia. Più che due paroline, Mr. Bront l'utilizzerà delle tracce. Una è di Stefano Genzini a Cafano, con la traccia che si intitola Loco Beep, e l'altra invece nel Paese degli Struzzi Remix dei JVEC. Sentite che robetta! Hai Hitler, hai Silvio Berlusconi, hai Hitler, hai Silvio Berlusconi.

compagnone de nada epoca. Pulla ca voi mai se pechi tu se sana. Yo, libera muzica, voci moștru modul ca un teribele. Ața mea doma nu ca ca geamul moștru istoria. Cristianii ca cu țarul se să musabă nu buiruva din genul. Dicendo la gente ca se gliști tu tipul moderismu. Ia nu șertu cuntul ca burui din zerubin. Nu mă avem mieru pe țerul lor, nu me pare produciu stru. Ognuna bese libre cu centru stile ca li viaje. De cuio ca se întâi giru nu ca fac un dizionare. Te duci cu buiruva medici nu mi-e de ne-i chemerase de la deamese. Perce nu bella muzica porta zule ce-a cheștade. El n-are ca nu bella muzica ca porta ce-a cheștade. Ed e la mente amata cadene ogni bagnone. Un cecco cu pite cu scope cu provamo cose nove. Quando sta a frequentare posti poveri o de valore. Io pancio il palo casino ca se face. C'anna dentro la grinta ed è guida ca sa cacciare. Io non su capace un pindu cazzate ca fanno su fare. La gente ca sta a sentire stu sveno ca che fenomenale. De nave sta, bagni pietru ca se sente oge. În ceașta danza se face pulita, pulita, toca se minte tona. Vede guișta la parola, ca lu zileta s-a speta. Chisimu, bom, boca, drogo si se saluta. Nu rispetă lu bagnone ca se truștile de lura. Ca s-a leto, bum, faia, vece ca ole nu se uta. Bazu cu minti lucidi, cu bazi lu știrie cu senti. Libera muzica, de lu bagnone, bun cu sera de ca. Libele mici, nu conține sa zogeta. Yo, libera muzica, bonciul un sistem, ca nu ci gangea. Sempre contru cu mala, ca nu cu ganna. Yo, libera muzica. E lu bagnone de nada evoca. Pulla ca voi mai sempre chi tu se sana. Yo, libera muzica. Voci moștru modul ca un teribele. Ața mea doma nu ca cangeamu moștru storia. Terror rebel sound contro ogni tipo di pregiudizio. Apri le orecchie. Mo senti come tu estu stu suenu. E cu duca sopra sta cazzamu. Ca cu li pregiudizi non si può scianazzi. O zala capu e orgoglio mitici. Ca no ni potu chiuin. Guardati tutte non in cutica faci di bui. So solo pregiudizi cuti cadeniti al capo. E cu questa ignoranza cavannazzi stu stato. Ci mi viti di culli capiti longhi. Drogato mi chiamate dinanzi miei vitati. E ci per caso mi sentiti qua cantare. I pipu ignoranti son su capo di alle giusto a parlare. Datta cento tu bagnone che mi sta sienti. Cuba innanzi tocca stringi i denti. La sapete che tu qua dicono sti cristiani. Che ti levano pure li mazzati dentro alle mani. Tutta insieme qua mola ma cantare. Che a sto stato non si può più guardare. E ti lo dico in italiano con la rima. Siete solo ignoranti, non meritate la mia stima. Mo senti come tu estu stu suenu. E tu tocca sopra sta cantamu. Che con li pregiudizi non si può sciannanzi. Ozza la capu e orgoglio mitici. Mo senti come tu estu stu suenu. E cu duca sopra sta cantamu. Che con li pregiudizi non si può sciannanzi. Ozza la capu e orgoglio mitici. Ti sentite battibili perché giudicate solo con la voce grossa. Ma se continuate a sparare stronzate sappiate che vi scaviamo la fossa. L'unica voce grossa che accettiamo qua è la nostra. I pregiudizi scavano a fondo e creano un vortice di ignoranza. Ma in questo modo non si cresce, il mondo rimane ingabbiato in una stanza. Le mentalità si richiudono in se stesse. Del progresso non si sente la mancanza. E mancanza d'altro manco a farlo apposta. Ci si tratti, ci si consuma per grazia di una luna. Che non illumina e culmina in un turbine che sfuma. E finisce in cenere, genere, genere di persone da temere proprio questo. E questo modo la moda si trasforma in antiprogresso. Il nesso incatenato dalle catene di uno stato che più che al futuro tende al passato. Dato di fatto, dato per scontato. La mia protesta per chi c'ha il culo parato, lo sguardo sbarrato. In generale io non giudico per non essere giudicato. So solo che sono stanco di non vedere il suo risultato. Mo senti come tu estu stu suenu. E tu duca sopra sta cantamu. Ca con li pregiudizi non si può sciannanzi. Ozza la capu e orgoglio mitici. Mo senti come tu estu stu suenu. E tu duca sopra sta cantamu. Si può sciannanzi, ozza la capu e orgoglio mitici. Ogni cristiano si veste come dice la capu su. E tu da stare gittu gittu e da fare i cazzi tu. E cazzimu modi intra su mondo e ognuno tene in da capu. E non c'è a criticare ci vedono jeans e squartato. Tutti hanno fino picca di libertà. Ci sta parlando di come c'è te lo fusco a qua. E ci di cui paroli lo tri, la salista. Ozza la capu e continua a camminare. Non usare la violenza si ne falli campà. Casa andare a rendere conti come fatta sta realtà. Caglian già non può capire te la dico muoio qua. Ogni libertà non si può criticare. Nessuno pregiudizio, nessuna vittima mienza. Non lo dico a tutti voi che se stato non si può chiui. Nessuno pregiudizio, nessuna vittima. Basta, basta, basta, non si può più sopportare. Mo senti come tu estu stu suenu. E tu tocca sopra sta cantamu. Che con li pregiudizi non si può sciannanzi. Ozza la capu e orgoglio mitici. Mo senti come tu estu stu suenu. E tu tocca sopra sta cantamu. Che con li pregiudizi non si può sciannanzi. Ozza la capu e orgoglio mitici. Senti mo' di ribellino reggeggiante. E ti contro lui. E allora statti tu, non giudicare e fai l'utri tu, bagnone, e via di sparlare, non giudicare, non disprezzare. Su luce non riesci a capire, questo ti lega e facci morire. Bagnone brutino e non lo siamo, mettimolo rispetto, sempre il primo piano. E allora sta faccenda la chiudimo, più la libertà e cultura è unitivo. Senti come tu stu stu suelo, come e tutto ca sopra sta cantamo. Ca con li pregiudizi non si può sciannanzi, ozza la capu e orgoglio mi dici. Mo senti come tu stu stu suelo, e tutto ca sopra sta cantamo. Ca con li pregiudizi non si può sciannanzi, ozza la capu e orgoglio mi dici. Mo senti come tu stu stu suelo. Che ne dite se andiamo a cambiare genere ed andiamo a cambiare argomento? La prima traccia scaricata sempre da Jamendo è la ballata Tilu Clandestino dei Sun Project, dall'album si intitola La Resistenza. Dopo invece andiamo a parlare di una canzone d'amore, Fetente, Giuseppe Mirabella. Dedicatela voi a chi volete, Fetente. Una casa e un lavoro, un pane e poi un vino. Questa è la ballata di un clandestino. Barconi fantasma, navi senza capitano, solo con la speranza affrontano lo mare. Tutti grigi con un carico di vita, con pienze cristi, piersi morti alla deriva. Quetta navi, mitici alle tempi, si andan sotto l'albanese. Casta cercano una terra, era l'90 che sbarcavano donui dopo 15 anni. La realtà non è cambiata mai. Non è cambiata mai. Sopra tutti uguali e non giudizio universale. Cessanti, scritti con dottori e l'ufficiale. Da bagnona, casa un'ava, con si sposa. La staccata entra in stiva, la piccina che aspettava. Mamma sa vuole la montua libertà. Ma in un nome sbagliato, questa campa mano qua. Era vecchio speranza, che dicevano gli antichi. Questa non mori mai, e dico io, non mori così. Questa è la ballata di un clandestino, cristiano come voi. Strano non ti faccio di certo vero. Questa è la ballata di un clandestino. Non mi cimentare, ci dico, sono diverso. Diverso di un mondo, perciaggio perso. Una casa e un lavoro, un pane e poi un vino. Questa è la ballata di un clandestino. Thank you. Ignacio Feca, garbuglio di monnezza. Sei tu un viscido, uno squallido, un bubone, una schifezza. Senza pelo ed alzi la voce, molle fuori a casa, feroce, duro e secco e onnipresente. Sei una croce, quanto ti ho amato, molto di più di un testo sacro. Quanto ti ho dato, quanto ho sudato, quanto ho sbagliato. Nella mia vita faccia di santo, ti sei infilato come in un guanto, giorno per giorno, lentamente, mano fedente. Chi pensa, e allora tu sputati addosso e spera se l'hai mai fatto nell'esistenza di un compromesso. Sopportato per coscienza, hai vissuto per reato, ma hai da pagare, di pagare, non hai pagato. E questo proprio no, non lo dovevi fare, per una goccia infame neanche il mare ti salverà. La tua anima comprerò, ti fumo e ti lamette. Sarò per te un cavaliere d'apocalisse. Sarò per te come le acque del purgatorio con sarai per me un ricordo ancestrale, sarà per te un'esperienza totale. Guarda questi occhi e preparati e scegli pistola o pugnale. Sarai per me un ricordo ancestrale, sarà per te un'esperienza totale. Guarda questi occhi e preparati e scegli pistola o pugnale. Capovolgimento di fronte, cambiamo genere, l'argomento così e così. Le tracce sono scaricate sempre da Jamendo. La prima è sulla Ventre Bianco dall'album Cosa e la traccia si intitola Mephisto. La seconda è LSP, 6x3. Quest'album è dedicato totalmente a Jamendo. Io la dedico a chi mi pare, voi fate altrettanto. Ormai comanderò io la nebbia sa. appena entrato avverti un senso di normalità. Non ti sta parlando è quasi fosse formalità. Hai già sentito quello strano saluto. Non capisci che non sei più il benvenuto, no. Fa da sé, fa per tre, questa sera mi faccio da me, mi faccio da me, perché chi fa da sé, fa per tre, questa sera mi faccio da me, perché chi fa da sé, fa per tre, questa sera mi faccio da me, perché chi fa da sé, fa per tre, questa sera mi faccio da me. Ma è la normalità che uccide, questo si sa! Rapporto si abbandona alla formalità. Non si sente dentro quello strano lamento. Non capisci che è già terminato il tuo tempo. Ma chi fa da sé fa per tre, questa sera mi faccio da me, perché chi fa da sé fa per tre, questa sera mi faccio da me, perché chi fa da sé fa per tre, questa sera mi faccio da me, perché chi fa da sé fa per tre, questa sera mi faccio da me, io mi faccio da me. Eccoci giunti alla fine di questo podcast e ci tengo a ribadire che l'argomento trattato oggi non era un argomento politico, ma un argomento morale. Ci sono delle circostanze in cui la morale è al di sopra di tutto, quindi era una questione morale. Dovevo affrontare questo argomento e l'ho fatto in questa circostanza. Bene, per salutarci vado a fruire sempre del sito di Giamendo. La prima traccia è Libero Angelo L, lato A e lato L. La seconda traccia è Ada un fiore, Sex in the Villa, dell'omonimo album Sex in the Villa. E l'ultima traccia per salutarci e augurarci un buon proseguimento tutti quanti è Come fossero perle, Bon Notte, intanto fuori piove. Un caldo abbraccio a tutti, un caldo abbraccio agli amici di Fuso Radio, un caldo abbraccio agli ascoltatori di Nartra Radio Roma. Alla prossima! Corre per poi rallentare la stagione al suo passare, per farsi ammirare un po'. Corro per poi rallentare sotto il sole a marciare. L'ordine è di sparare, ma io no, no, no, no, no. Siamo liberi come quadri senza cornice, molto più liberi come onde in superficie, liberi come ruggine senza pendice, liberi come piante senza radice. Passare per farsi ammirare un po'. Corro per poi rallentare sotto il sole a marciare. L'ordine è di sparare. quadri senza cornice, molto più liberi come onde in superficie. Oh, mi aspetto vita circolare. Come trovare direzione? Città che sappia consigliare, come ingabbiare o come meglio stare. Dentro le vasche bianche, colme di parole, come ascoltare quello che non ti va di dire. La calma è differente di una domenica obbligata, lenti come fossero perle, lenti come fossero perle. Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah.